piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Guarda quanto è lento quella che... E già si è sventodetta stamattina che sta frigge. Ho fatto una scolatura di fritto, c'avevo quattro persone, poi a mare vi è fame, sa, oh. Io poi tutti questi preparativi non li capisco, le melanzane, le fettine, il cocombero. E poi per andare a Fiumicino. Perché con le melanzane, le fettine, il cocombero dove si va? A Viareggio? Ma che c'entra? Se muovemo mai, una volta che si muovemo si poteva andare a Anzio. Già te l'ho detto 44 milioni di volte, noi andiamo a Fiumicino perché godiamo della riduzione del 50%. E che sarebbe questa riduzione del 50%? Già te l'ho detto, il commendator Villetti ha preso un accordo con la direzione generale dello stabilimento balneare. Sì, tu mo' mi incanti. Di' piuttosto che ci vuoi andare perché c'è qualcuno che ti interessa. Erano tempi molto teneri. L'anno è il 1951. Aveninchi, Aldo Fabrizi, anche Carlo Delle Piane, giovanissimo, erano la famiglia Passaguai, una media famiglia italiana, che in quell'estate andavano a Fiumicino perché avevano lo sconto del 50%. Le villeggiature iniziavano ad essere, negli anni del pre-boom, una sorta di obiettivo immancabile per l'evoluzione sociale degli italiani. Diciamo che ci troviamo in una situazione specularmente opposta. Ci troviamo di fronte a una sorta di necessità di ridimensionamento di quelle che sono le nostre consuetudini, le nostre aspettative al venire dell'estate. Diciamo che con tutti i problemi sociali ed economici che ha attraversato il nostro paese negli ultimi anni, l'estate è sempre vista comunque nell'immaginario generale come un momento in cui si fa qualcosa di diverso, per qualcuno soltanto una settimana, per qualcuno un periodo più lungo, per qualcuno in zone limitrofe al proprio domicilio, alla propria residenza, altri organizzano viaggi lontani. Insomma, l'estate è sempre stata associata all'idea di una necessaria, lecita evasione. L'estate al tempo del coronavirus sarà sicuramente diversa. Lo avete sentito già accennato il problema nella trasmissione che mi ha preceduto, Due dei Denari. Avete sentito come stanno licenziando in maniera massiva le grandi aziende che hanno sempre rappresentato il sogno di vacanza a buon mercato a portata di tutti. Le necessarie norme di distanziamento sociale, di sanificazione e di contenimento delle masse umane che si spostano, di limiti invalicabili proprio per evitare la diffusione dell'infezione da coronavirus, fanno sì che cominceremo adesso, appena ci sarà scemata l'euforia del pronto ritorno a casa, da fuori casa, cominceremo a porci il problema delle vacanze. Cosa faremo l'estate? Staremo chiusi dentro casa anche l'estate? Ci inventeremo qualcos'altro? Avremo modo di avere delle forme alternative, di dare un senso al periodo estivo? Beh, oggi di questo vorremmo parlarne. Ne vorremmo parlare secondo vari punti di vista. Il punto di vista di chi è un operatore del tempo libero, è un operatore dell'accoglienza, che si vede necessariamente ridimensionate tutti i propri investimenti, tutte le proprie aspettative, è difficile anche fare delle previsioni. E anche dal punto di vista di chi si è sempre in qualche maniera organizzato in modo alternativo, non ha mai seguito quelli che sono i flussi più consueti del trascorrere il tempo libero, di fare vacanze, e quindi oggi si trova in prima linea nel suggerire quello che potrebbe essere il senso dell'estate proprio al tempo del coronavirus. Chiamate all'800240024, dateci un'idea di quello che è il senso che pensate di dare alla vostra estate, compatibilmente al vostro potere d'acquisto, compatibilmente al vostro essere stati colpiti nel lavoro, negli affetti, nel proprio equilibrio psicofisico dal coronavirus. Andrea Petroni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Andrea Petroni è un personaggio molto noto per una fetta di italiani, e non soltanto di italiani, che hanno sempre concepito la vacanza come qualcosa di diverso rispetto al seguire i grandi flussi, le grandi mode. Ha fondato vologratis.org, che è un sistema di cui tutti almeno una volta abbiamo usufruito per trovare voli a buon mercato, per permettersi di viaggiare oltre quella che è il pregiudizio che viaggiare costa molto, ma questo si parlava nell'altra vita, quando ancora non c'era il coronavirus, e autore di professione travel blogger, Dario Flaccovio editore, è una persona che da sempre è stato un portatore dell'ideologia del turismo di prossimità, che è il turismo probabilmente che più andrà in voga da oggi fino a tutta l'estate prossima. Ci spiega intanto Andrea Petroni cosa si intende per turismo di prossimità e perché, secondo lei, l'ho letto nel suo blog, è la formula che più sarà seguita in questo tempo, in questo periodo. Certamente, allora, per turismo di prossimità si intende proprio lo spostamento del viaggiatore verso mete vicine a casa, raggiungibili per lo più con un viaggio in macchina. L'automobile sarà sicuramente il mezzo di trasporto che in questo periodo ci farà stare più tranquilli rispetto all'aereo, rispetto ai treni, rispetto agli affollati traghetti. E queste località saranno possibilmente, come dicevo, entro i 100 km da casa, non troppo affollate, come ad esempio i borghi tra mare, montagne e colline. E ci sarà anche una riscoperta del turismo lento, un po' come avveniva qualche decennio fa. Ma questo è esattamente l'opposto, scusi Petroni, di quella che era, diciamo, l'ultima tendenza. Esatto. Le colleghe in ufficio e i colleghi in ufficio si organizzavano per fare una toccata e fuga magari sotto Natale, sotto Pasqua, in un ponte di weekend, andarsi, che ne so, in Birmania 3 giorni e mezzo, visto che si riusciva a spuntare dei voli a buon prezzo, un soggiorno a buon prezzo. Improvvisamente gli italiani hanno girato il mondo nel giro di pochissimi anni. Questa tendenza cambierà completamente. Esattamente, esattamente, anche perché, come diceva bene lei, viaggiare per molti di noi fino a qualche mese fa era un po' come uscire a fare una passeggiata in centro il sabato pomeriggio, complice anche le basse tariffe poi proposte dalle compagnie low cost, però viaggiavamo anche un po' compulsivamente. Adesso cambierà sicuramente il modo di viaggiare per molteplici motivi, soprattutto ci sarà una diminuita capacità di spesa degli italiani per via purtroppo della perdita dei posti di lavoro, della cassa integrazione, ma anche una cosa importante, la diminuzione del monte ferie dell'italiano, perché a molti sono state proprio imposte ferie durante questo periodo. Poi complice anche la chiusura delle frontiere di parecchi stati, il taglio netto al numero dei voli e la diminuzione dei posti a sedere a bordo di quelli che ne rimarranno. Ma la paura del viaggiatore... Ecco, lei che si è inventato volo gratis, è finita la pacchia del volo gratis, o sbaglio? Allora, diciamo che il mondo del low cost ha subito un arresto già da un paio di anni. Dall'euforia iniziale dei primi anni 2000 è andato un po' scemando, anche perché i prezzi dei biglietti aerei sono aumentati, le compagnie aeree anche low cost hanno cominciato ad aggiungere delle tariffe superiori, i supplementi addirittura per il bagaglio a mano. Quindi ecco, adesso qual è la situazione? Lei che ha, diciamo, il polso più di tanti altri, visto che ha sempre stato il fluidificatore dei viaggi a buon prezzo. Oggi com'è la situazione? Mediamente, ammesso che si possano riaprire alcune frontiere, quale sarebbe un prezzo medio di un volo che una volta consideravamo un low cost? Si prendeva, cioè, si poteva partire perché ce lo potevamo permettere tutti. Oggi mi sembra sia passato questo momento. Allora sì, il momento è passato, anche perché quando riapriranno i voli la diminuzione proprio dei posti a sedere farà aumentare ancora di più il prezzo. Quindi se prima riuscivamo a spuntare un volo con una low cost in periodi ovviamente non di alta stagione a 20, 30, 40 euro, adesso dovremmo mettere, insomma, mano più pesante al portafoglio, quindi saremo secondo me almeno sugli 80-100 euro per un volo che prima pagavamo anche 10-20 euro. Quindi è cambiata completamente la situazione. Sentiamo un attimo un'ascoltatrice, 800240024, vi ricordo che oggi parliamo di forme nuove, alternative, naturalmente più economiche e più adeguate a quelle che sono le normative di sicurezza generali. Manuela da Ravenna, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Dunque, voglio dire che pensandoci adesso nell'attesa mentre lei mi annunciava, forse potrei dire anche nella sua vostra trasmissione si può fare, nel senso, che io ho sempre fatto, diciamo, il piano B, proprio per non, cioè quello che lei ha nominato tipo piano B, cioè le vacanze nel circondario. Fortunatamente io il mare a Ravenna, 5 chilometri, 7 minuti di auto, e non mi sono mai mossa nei mesi in cui appunto a Ravenna viene il turismo. Quindi quest'anno più che mai, perciò per me non cambia nulla, voglio dire, capito? Lei è sempre stata una turista di prossimità. Sentiamo Martina da Bologna. Martina, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. L'ascolto. Allora, io avevo pensato di fare come vacanze quest'anno, di diventare una cercatrice di oro. Ho trovato dei gruppi molto interessanti su Facebook che parlano appunto di questa passione, e ci sono persone disponibili. Cioè andare a cercare l'oro proprio col setaccio, come i pionieri due secoli fa. In mezzo alla natura, magari dopo 2 ore di camminate nel bosco per raggiungere i corsi d'acqua. E ci sono persone disponibilissime, che disposte anche ad insegnarti gratuitamente, anche perché. Sì, ma dove sono questi filoni d'oro in Italia? Ne ha notizia? Ma nel Ticino soprattutto, da quel che ho capito. E poi ci sono, ti spiegano anche come riconoscere le zone semplicemente guardando le immagini satellitari, dove vedi appunto delle punte, dei corsi d'acqua con dei colori. Si immagino che più, diciamo, un'attività escursionistica e di curiosità, perché se ci fossero i filoni d'oro capaci di arricchirci, ci sarebbe una nuova corsa all'oro in Italia, e la vedo un po' improbabile. Allora torno invece a Andrea Petroni, ricordo, autore di Professione Travel Blogger, che è un travel blogger. Vediamo di capire, però io non vorrei far passare il turismo di prossimità come un escamotage di poraccismo, nel senso, visto che non possiamo permetterci altro, facciamo questo. Lei, che l'ha sempre praticato come attività primaria, ci dà qualche altro segno dell'esclusività di questa scelta? La signora va a cercare l'oro, mi sembra un'idea divertente, faccio la cercatrice d'oro. Cosa c'è di assimilabile a questa attività singolare della nostra ascoltatrice? Ma secondo me, io la lancio anche così, un po' come provocazione, e se questa crisi economica derivata dalla pandemia fosse anche un'opportunità per l'Italia, per il turismo italiano, questo turismo di prossimità non deve essere visto come non posso andare all'estero, non mi posso muovere, non posso fare le vacanze come le facevo 2 anni fa, e quindi devo ripiegare sull'Italia. Viviamo in uno dei paesi più belli. Quello del mondo, che ho detto, non è la poraccitudine che ci spinge, è una scelta più esclusiva, diversa. Esattamente, certo, perché torneremo al contatto con la natura, con la nostra cultura, con le nostre tradizioni, con la nostra arte, ci riapproprieremo dei nostri spazi e daremo anche lavoro al nostro turismo, che sarà sicuramente segnato, ma non vedrà nemmeno purtroppo il turismo straniero che spesso durante l'estate arrivava. Insomma, che e dava, questo infatti dava... è un altro problema che toccheremo nel corso della trasmissione. Chi aveva in mano gli strumenti di recettività sa bene che i turisti quest'anno non verranno in Italia, sarà difficile, ci ha colto con la sorta di anatema che noi molte volte abbiamo applicato ad altri paesi. L'Italia, nel senso comune, a torto naturalmente, è definito il luogo della scaturigine massima del coronavirus, quindi la gente dice: non andiamo in Italia, ci pigliamo qualche malattia. Ecco, così un po' riflettiamo anche su tanti nostri pregiudizi. Maria da Pesa Urbino. Maria, buongiorno. Buongiorno. Dicevo alla sua collaboratrice che se ci vorranno, perché noi siamo stati un po' in zona rossa, no? Siamo un Pesa Urbino, avevamo pensato, perché grandi possibilità non ne abbiamo, quindi sarà una settimana eventualmente al lago di Fiastra, che è nelle Basse Marche, perché mio marito è pescatore, quindi comunque piacerebbe a lui e piacerebbe anche a me, perché è un posto rilassante, è un posto che ci piace, oppure anche al Gran Sasso, per esempio, ecco, dove non si è, pur essendo molto vicini, non siamo mai andati, ma noi non siamo mai neanche andati fuori dall'Italia, ma non, perché non ci interessa molto, c'è tanti bei posti, non è che voglio dire c'è bisogno di andare fuori. Sì, c'è il paradosso di persone che sono state in Lapponia e non sono state, non lo so, in Abruzzo, ad esempio. Perché? Perché c'è stato un momento in cui il bel viaggio in un paese lontano, alcune mete, era veramente offerto a prezzi irrisori. Uno dice, se io con 300 euro me ne vado in un posto esotico, vado in Estremo Oriente, perché devo andare a mangiarmeli a suon di arrosticini e di caciotta? Preferisco andare lontano, se ho da raccontare agli amici. Oggi si ritorna un po' con i remi in barca. Aggiungo un altro elemento a quanto stiamo dicendo e introduco un secondo ospite, Paola Secco, che è una guida turistica abilitata. Paola Secco, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Ecco, anche voi come ve la mettete col turismo di prossimità? Immagino dovrete rivedere completamente quelli che sono gli schemi tradizionali del vostro lavoro. Penso proprio di sì, perché questo è l'unico scenario possibile in questo momento, visto che l'incoming straniero è completamente annullato. Le linee aeree fino ad ottobre non hanno cancellato i voli, quindi siamo obbligate a reinventarci proponendo un nuovo tipo di visita di turismo, da riscoperta anche da parte dei residenti. Io abito a Roma e quindi proporre dei nuovi itinerari e quindi invitare a questa riscoperta. Ecco, come funziona? Perché io immagino vi state riqualificando totalmente. Se lei era abituata a portare le compagnie di giapponesi, di tedeschi, di polacchi che venivano a visitare Roma, a vedere il Papa, a vedere il Colosseo, a vedere la Bocca della Verità, oggi queste persone se ne stanno perlomeno al momento a casa loro, quindi lei dovrà invogliare degli italiani a fare dei piccoli giretti e a scoprire magari la loro città o i dintorni della loro regione. È proprio questo, anche perché allora il Ministero dei Beni Culturali, il MIBAC, siamo in attesa che si pronunci anche sulle direttive da adottare per quando ci sarà questa prossima riapertura di siti archeologici, di musei, e fino a che noi non sappiamo quali sono le direttive, non possiamo, diciamo, siamo un po' bloccate in questo senso. Sì, fra l'altro non sapete neanche i posti che sono aperti, a che tipo di condizione sono aperti, perché lei non sa quante persone di un gruppo può portare in un posto. Esattamente. Non sa quante ne potrà contenere e quanto tempo ci vorrà, perché se le farle entrare in piccoli gruppi di 3-4 persone, immagino in un museo, in una zona d'arte, anche lei dovrà organizzarsi diversamente. Le è stato suggerito un protocollo di sicurezza anche a lei come guida? No, quindi deve inventarsi. Quello che deve fare lo deve inventarsi. Sì, siamo sospese perché stiamo aspettando queste nuove direttive che ancora non ci sono. Ci sono ancora annunci concreti da parte del Ministero, da parte del Governo. Stiamo aspettando questo nuovo decreto. Ma ci fermiamo solo un attimo, Paola Secco, che io devo dare la linea, poi riprendiamo. Il discorso mi sembra interessante, visto che si è sempre detto, riempendosi naturalmente la bocca di grandi profluvi retorici, che il vero petrolio dell'Italia è il turismo. Adesso vediamo questo petrolio come diavolo si farà a tirarlo fuori da sottoterra. Ci fermiamo un istante. Melog 800240024, oggi stiamo parlando di quello che viene inteso come turismo di prossimità. È abituarsi a guardare i posti vicini, non i posti lontani, rendersi conto che in realtà questa grande illusione che il mondo fosse sempre a buon mercato, a nostra portata di mano, illusione era una certezza sicuramente, ma erano altri tempi, altre circostanze. Oggi dobbiamo cominciare a concentrarci su dei microcosmi prossimi a noi, almeno fino a che non finirà il pericolo del coronavirus. Io ringrazio che mi sta aiutando ad andare in onda i colleghi da Milano, Filippo Aureggi e Anita Panizza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, che continua imperterrito come me a restare a casa. E come cambiano le abitudini? Faccio una riflessione. Diceva prima il nostro ospite che il turismo di prossimità sarà una nuova condizione estetica di concepire il proprio tempo libero, non un ripiego, ma capire che ci sono alcuni orizzonti di valore da sondare, da conoscere, con i quali ricollegarsi, che possono essere a portata delle norme restrittive di questi giorni. Noi ci siamo resi conto che esistono alcuni orizzonti di valore per svolgere il proprio lavoro che permettono di starsene dentro casa propria perfettamente attrezzati. Stavo parlando con Paola Secco, che è una guida turistica abilitata, e mi diceva come cambia il vostro lavoro. Anche lei, Paola, si sta attrezzando con strumenti tecnici nuovi, perché immagino che il contatto quasi epidermico con le persone che lei porta a fare giti turistiche se lo deve scordare. Esattamente, ce lo dobbiamo scordare, quindi io penso che le prime, come dire, iniziative di visite guidate che ci saranno quando ci sarà questa riapertura, quando avremo questo decreto che ci darà delle disposizioni precise, solo allora potremo cominciare, ma con piccoli gruppi, con poche persone, e lo sapremo solo dopo questo decreto. Quindi saranno prevalentemente delle visite con individuali, come noi chiamiamo, con poche persone, e ovviamente l'utenza stessa sarà molto circoscritta a quello che è la nostra città. Ma immagino che avrete possibilità di farlo con gruppetti piccolissimi, con 4-5 persone piccoli, al massimo. Sì, avvalendoci anche di dispositivi, quali sono gli auricolari. Dovrà dotarsi di un sistema di radiomicrofono con i ricevitori, sì, ognuno avrà il suo ricevitore, certo. Dovrà sanificare ogni volta tutti gli apparecchi, però. Si rende conto che lavoro, ogni volta dovrà sanificare tutto. Questo ci penseranno le agenzie che ci dotano di questi dispositivi per quanto riguarda la sanificazione di questi dispositivi. Immagino anche andare per i fori romani d'estate con le mascherine non sarà certo una passeggiata, cambieranno anche gli orari probabilmente di visita. Sì, ecco, gli orari di visita saranno sicuramente differenti, perché ovviamente il romano lavorerà, e quindi le probabili visite saranno svolte soprattutto la sera, per dare questa possibilità di seguirci, perché durante la giornata, anche con il caldo, e poi saranno delle visite sporadiche, perché non credo che il turismo, almeno per quanto mi riguarda, partirà così velocemente, anzi sarà molto lenta questa partenza del turismo, questa rinascita del nostro turismo. Noi guide, visto che anche i gruppi scolastici sono bloccati, le scolaresche, i gruppi in sé, saranno delle visite differenti, che non saranno così veloci a ripartire per noi. Sì, ma questo ho capito, c'è un vantaggio in questo vantaggio, sarà una scoperta, cambieranno completamente proprio le configurazioni urbanistiche delle nostre città, i momenti di affollamento non ci saranno più. E sarà popolata, diciamo, anche il basso orario di frequentazione, tipo pomeriggio e sera avremo delle compagnie di turisti che vanno in giro a visitare la città, quando prima vedevamo soltanto lo stravaccamento delle movide. Le movide non esisteranno più, insomma cambierà molto. Sentiamo qualche ascoltatore, tanto grazie a Paola Secco. Katia da Modena. Buongiorno, come dicevo prima la sua collaboratrice, noi siamo una famiglia di 4 persone con un cane. In questi anni, appunto, da quando abbiamo il cane, frequentiamo moltissimo la Croazia, d'estate chiaramente, perché c'è la possibilità di portarsi il cane praticamente ovunque nelle spiagge. E a noi piacciono i posti isolati, non frequentati da tantissime persone. Lì ci sono tantissime spiaggette dove ci si arriva solo a piedi e si sta soli. Questa è la nostra vacanza. Adesso, invece, chiaramente, adesso? Chiaramente dubito che potremmo andare in Croazia, anche se avremmo. Sì, nelle spiaggette della Croazia col cane penso di no. Devo anch'io. Quindi sto cercando delle località in Italia che mi diano la possibilità di fare una vacanza simile, ma non è facile, perché l'Italia per gli animali non è proprio così. Non è ancora così aperta, diciamo, quindi non lo so. Lei può considerare, Katia, c'è chi ama tantissimi cani, non vede l'ora di vedere delle spiagge piene di cuccioloni. chi in effetti l'odore di pelo bagnato di carne non è che proprio lo gradisca molto, questo deve anche considerarlo, onestamente, sono punti di vista diversi, ci deve essere spazio per tutti, questo è giusto, ma non è che deve essere manco un obbligo di vedersi i cani intorno in spiaggia, c'è chi non piace, non gli va, e giustamente non gli va. In questo momento sarà più difficile mettere insieme tutte le esigenze, quelle lecite e sacrosante di persone come Katia, che vogliono andare in vacanza col cane, e soprattutto vogliono dei posti liberi con poche persone. Penso che lo scaglionamento, e non mi si fraintenda, sia la soluzione per tutti. Si faranno periodi più brevi e si faranno soprattutto delle vacanze organizzate in posti che normalmente non erano poi così frequentati. Lorenzo da Cuneo. Salve, grazie. Ascolta. Per avermi fatto partecipare. Ma guardi, io la cosa che volevo far notare è che si parla pochissimo di mototurismo piuttosto che di della moto in generale, che già attualmente potrebbe essere un'ottima soluzione a livello di spostamenti, anche solo per andare a fare la passeggiata in montagna piuttosto che altro, perché si ha il casco. Ma se le dico una cosa, dunque io ero un motociclista appassionato nella mia prima vita adolescenziale e giovanile, però quando venni a Roma e cominciai questo lavoro l'abbandonai perché consideravo non era una città che mi ispirava, poi ho altre cose da fare. Io in questi giorni di forzata cattività sto pensando di ricomprarmi una moto, perché dico, un'automobile per quanto sia ci andranno tutti, nei mezzi pubblici che frequentavo, se posso, avendo 65 anni per un po' eviterò di andarci, una come mi muovo? Evitare. Roma non è città da bicicletta, e quindi pensavo di farmi una bella moto, una moto dei miei sogni, quelle che sognavo da ragazzo e mai mi potevo permettere, non estremamente grossa, non aggressiva, non da spaccone, ma una bella moto da città. Non mi piacciono gli scooter, perché gli scooter li trovo un ibrido fra la Vespa e la bicicletta. Di gusti, c'è chi è scooterista, sì. Chi è motociclista, io sinceramente non disdegno né l'uno né l'altro, sono molto democratico da quel punto di vista. Però se dovessi fare un acquisto a due ruote mi prenderei una moto, prenderei una bella moto, bella, robusta, ben dimensionata, che mi permette di andare anche fuori strada, e bella, comoda, e mi farei quella, andrei in giro con quella. Ma se lei pensa anche oggi, con il casco, i guanti, che problema ecco, c'è? Sei già in qualche maniera protetto, perché la moto... Con un bel casco integrale, bello chiuso, stai chiuso. Esatto. I guanti ce l'hai comunque. Sei già in qualche maniera protetto anche, e quindi puoi viaggiare in condizioni. Lei pensi che la normativa attuale, il decreto attuale, in alcune zone c'è già la possibilità di utilizzare la moto come mototurismo, quindi si può andare liberamente. In altre non lo si può fare. Cioè lei non può prendere la moto per dire ok, adesso vado in montagna, che consideri che Cuneo è in montagna praticamente. Io non posso andare sul Colle della Maddalena a 50 km in aperta, dove non c'è niente, non c'è nessuno, non posso andarci in motocicletta per dire. Sì, si lamentava anche Fabrizio Corona. No, Mario Corona, Mauro Corona questa mattina, ma Fabrizio Corona non so Fabrizio, dove sia. Sì, non ha questi problemi, anzi il suo è un turismo più che mai prossimo. No, Mauro Corona si lamentava, dice non posso andare al paese che sta a 5 km da casa mia perché è un'altra regione, è giustamente questo. Però quella della moto mi sembra una buona iniziativa. Volevo un attimo introdurre l'argomento che poi tratterò nella terza parte di questo programma, che è quello proprio della ricettività. Abbiamo al telefono Alessandro Ruscello, buongiorno Ruscello. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. È direttore di un albergo a Roma, un albergo medio con parecchie stanze, che era abituato ad avere un certo tipo di attività e adesso sta cambiando. La prendo come rappresentante medio degli albergatori d'Italia, vediamo così, visto che ha un'esperienza. Naturalmente Roma è una città molto particolare, si basa soprattutto sul turismo, sulla gente che viene da fuori, ma ci saranno altri tipi di alberghi. Qual è stato il primo problema per voi albergatori di riconversione al nuovo corso? Ma guardi, consideri che, come ha premesso lei, Roma è una città poliedrica sotto l'aspetto della ricettività turistica. Oltre ai flussi del turismo tradizionale, Roma vive grazie alla presenza di diverse possibilità, vive anche di un turismo business, quindi anche questo in questa fase di riconversione sicuramente avrà una... È quello che vedo peggio, adesso con Zoom, lei deve darmi una ragione. Esatto, Ho infatti lanciato un diktat a tutte le persone che lavorano con me, miei amici, miei colleghi, collaboratori, tutte le persone che lavorano con me. Da oggi, mai più nella vita, io mi sposterò da Roma per stare fuori 2 giorni, per parlare con qualche stronzo 20 minuti, vederlo in faccia e non vederlo più. Mai più nella vita lo farò. Infatti è quello dove volevo appunto quindi i convegni arrivare. Io non ci andrò mai più a un convegno, se vogliono si collegano, ci sarà, ma siamo matti, ci sarà 2 giorni di vita per star 20, per parlare 10 minuti di fronte a una platea assonnata di 200 persone, ma chi lo farà mai più? E indubbiamente questo significherà, e quindi un voi che avevate molto... diciamo sale che affittavate per i convegni, che ci fate adesso? Bella domanda, che ci facciamo adesso in questa prima fase di riconversione? Le sale convegni sicuramente potranno ritornare utili, vista la loro grandezza, potranno ritornare utili per la riconversione della ristorazione. Come ben sappiamo, ci saranno degli spazi di distanza sociale da rispettare nei tavoli. Ecco, siccome quindi... potranno starci meno persone in una sala ristorante, vi allargate, esatto, allora nella sala convegni ci mettete la ristorazione, mi sembra perfetto, ottimo, già una bella idea. Questa, sì. E questo diciamo che potrà permettere di dare dei servizi, che sono poi quelli i servizi della ricettività alberghiera, che sono il pernottamento e la prima colazione, di dare dei servizi in piena sicurezza, in piena sensazione di sicurezza. Perché l'aspetto fondamentale adesso è quello di trasmettere ai nostri ospiti, perché gli albergatori parlano di ospiti, non di clienti, di trasmettere un senso di sicurezza, più che fermarci su idee strampalate, quelle di proporre un 3x1, 3x2, 5x7 giorni, no, trasmettere sicurezza, trasmettere il senso di pulito, di sanificazione che viene fatta fermo un attimo Alessandro Uccello, sì. Un secondo, devo dare la linea. Questo è il primo concetto che abbiamo messo a punto: non vi aspettate oggi dagli alberghi grandi condizioni massive di scontro, e tanto non potrete mai più viaggiare in gruppo, sarà difficile, i gruppi sarà difficile, potranno andare in giro, perché dove li spostano? Gli aerei dovrete stare distanziati, gli autobus tanto meno, costerà tutto molto di più, quindi saranno piccoli gruppi che si sposteranno e cercheranno luoghi sicuri. Ci fermiamo soltanto un istante. Melog. Vacanze di prossimità, turismo di prossimità, cambiamento delle abitudini totali per chi viaggia e per chi si occupa appunto di viaggiatori. Sentiamo Lorella, provincia di Grosseto, poi riprendiamo con il nostro ospite. Lorella, buongiorno. Sì, sì, buongiorno. Ascolta. Buongiorno, io abito in, noi abitiamo in Maremma e abbiamo un piccolo agriturismo e siamo stati contattati da numerosi abitanti della Lombardia e del Piemonte. Perché qui in Maremma, io non so se voi lo sapete, ma ci sono tante strutture, vecchie proprietà agricole, che sono state riconvertite in agriturismi. Ma sono appartamenti singoli, distanziati l'uno dall'altro, abbiamo realizzato delle piscine, abbiamo realizzato degli angoli giochi per bambini. E quindi è possibile in sicurezza fare le vacanze quest'anno. Tra l'altro siamo anche vicino al mare, perché siamo a 20 minuti in auto. Il problema è che finché non si sbloccherà il limite, infatti, di varcare il confine regionale, certo, verranno soltanto, certo, persone che abitano in Maremma al momento. Certo, però voi vi state, certo, organizzando nell'agriturismo, ad esempio. Io mi sono organizzata, nel senso, ho cominciato a diffondere e a pubblicizzare la nostra struttura. Ma mi faccio capire, Lorella, cos'è cambiato rispetto a prima? Rispetto in a nome prima, della avevamo... sicurezza di cui parlava Alessandro Uccello, cosa avete fatto di diverso nell'attesa che arrivino poi i turisti, i clienti? Allora, in realtà non abbiamo fatto nulla, perché noi la nostra struttura era frequentata soltanto da turisti stranieri, solo da tedeschi, perché i tedeschi volevano essere completamente isolati, volevano riposarsi, volevano la piscina, volevano l'angolo per bambini, volevano il campo da tennis. Ma la piscina già sarà un problema adesso, perché in piscina non credo che chiunque possa tuffarsi in piscina. Ma, appunto, cioè, se tu vieni con la tua famiglia, e sei con la tua famiglia o con il tuo una famiglia per amico volta intimo, fare, una famiglia per volta, esatto, una famiglia per volta, perfetto, perfetto. Meglio perfetto, di niente, le dice, una famiglia per volta. Noi possiamo fare una famiglia, famiglia per ci volta. Occupiamo. In realtà noi abbiamo due appartamenti, ma molti di quelli che hanno telefonato e prenotato, poi chissà se verranno proprio per questa chiusura fra regione e regione, hanno chiesto di essere soli. E quindi io ho messo a disposizione solo uno degli appartamenti, o l'uno o l'altro, noi ne abbiamo due. E a seconda della loro scelta. No, questo mi sembra chiaro, come scelta. Alessandro Ruscello, riprendo con il direttore di un albergo romano che però è ben informato della situazione nazionale. Ecco, la collega, se posso chiamarla così, di Grosseto, se ha fatto in necessità virtù, occupa solo un appartamento e prende una famiglia per volta, non credo che abbia alternative. No, infatti, ma indubbiamente in questa fase, quindi di turismo, sicuramente le strutture ricettive extra alberghiere saranno quelle che saranno avvantaggiate da questo fatto, perché la ricettiva extra alberghiera rappresenta il spostarsi in un'altra casa. Parlo di case vacanze, parlo di piccoli agriturismi come quello che diceva la signora precedentemente. Però lei si rende conto che lei conosce i costi meglio di me. Tenere aperta una piscina per una famiglia comincia a essere un problema di gestione. Come fate a rientrare nei costi? Indubbiamente sì, ma immagini quanto sia ancora più mediamente strutturato quello dove lavoro io, che di circa 300 casi, dove dei costi fissi che ci sono molto ma molto significativi, dove l'incidenza del personale inevitabilmente utilizzare per garantire determinati... Sì, c'ha una, Ruscello, la dobbiamo richiamare perché c'è una linea che sto perdendo tutto quello che lei sta dicendo. Provate a richiamarlo un attimo, tanto abbiamo ancora un po' di tempo prima di chiudere. Io ricordo, a proposito di quello che mi diceva Ruscello, di aver visto un servizio fatto a un barista calabrese proprio all'indomani dell'ordinanza della governatrice La Calabria che si potevano riaprire i bar purché avessero i posti all'esterno. Ha detto: io mi sono fatto due conti, io dovrei tenere una persona a sanificare il bagno per ogni persona che entra. Quindi ognuno che entra deve sanificare il bagno, quindi un addetto soltanto alla sanificazione del bagno. Un altro deve stare ai tavoli per sanificare tutto quello che viene toccato o sfiorato dagli avventori. Quindi io avrei un impegno di personale in più notevole, con probabilmente un terzo degli avventori in meno. A me non conviene tenere aperto. Alessandro Ruscello, quello che... ho riassunto è questo, vale anche per voi albergatori, quanta gente in più vi serve per mantenere quelle condizioni di sicurezza che vi vengono richieste? Indubbiamente sì, quindi questo è il punto nevralgico per le riaperture dei grandi alberghi su una città come può essere la città di Roma, dove inevitabilmente si dovrà fare una scelta obbligata di ridurre i servizi presenti. Faccio un esempio, un albergo dove inevitabilmente c'era una spa, un ristorante, un centro congressi, altre attività correlate, indubbiamente nella riapertura per i prossimi mesi non potrà garantire tutti questi servizi. E qui mi viene in mente la spa, lei ha nominato la spa. La spa era il plus richiesto in ogni albergo, chi andava a fare una vacanza di relax, vado nella spa, metto l'accappatoio, le pianelle, mi metto gli oli profumati, mi faccio fare il massaggio. Ecco, tutte questa struttura, questo investimento al momento perlomeno è inutilizzato. Sicuramente sì, e quindi saranno dei servizi in meno ma immagini poi su quegli alberghi dove avevano un servizio come la spa, quante persone ci lavorassero. E quindi tutte queste persone, questa incidenza di costi, e come riusciamo a giustificarla, come riusciamo a sostenerla adesso? Diciamo, dal punto di vista dell'utenza è un ritorno al passato, chiamiamola una vacanza vintage. Le spa e le saune si vedono soltanto nei film con i telefoni bianchi, la gente andava in albergo, mangiava, bea, dormiva e se ne andava. Oggi ritorniamo un po' così più o meno. Era un ritorno, un passo indietro, un ritorno al futuro, come si dice. Per forza. Pur di stare a casa o stare sempre fermi e non potersi permettere nemmeno quel sollievo della mente che dici mi prendo qualche giorno e stacco. Sì, lo stacco sarà condizionato. Sentiamo Marco da Bari. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, d'ascolto. Io sono un camperista da qualche anno, ho fatto anche il viaggio di nozze con bambini in Norvegia, e pensavo che un punto di partenza, di ripartenza per il turismo potesse essere il camper, perché ha le caratteristiche di totale autonomia, non devo usare i bagni di nessuna struttura, uso il mio, posso stare a distanza imposta da un altro camper in una struttura che sia un campeggio o no, e molti agriturismo o comunque molte strutture che hanno campagna o spazi all'aperto potrebbero riconvertirli molto rapidamente, basta una presa e un tubo d'acqua, ad accogliere i nuovi camperisti. L'unico problema... lei parla, Marco, da un suo punto di vista... Penso che una rivoluzione totale nelle proprie abitudini. Il camper è una scelta su gusti personali, individuali, che è abituato ad andare in albergo, è un bel salto abituarsi o pensare di fare una vacanza in un camper, che è bellissimo, immagino sicuramente, ma non è che per tutti è così facile, sentirebbe probabilmente un po' a disagio, perché bisogna cambiare completamente abitudini, perché sì, è vero, non bisogna andare nel bagno del campeggio, ma bisogna andare nel bagno chimico dentro il camper, bisogna abituarsi a un altro tipo di vita, che è avventurosa, bella, particolare, ma non è certo alla portata di tutti. La vedo un po' difficile come una riconversione al culto del camper o del campeggio, per chi non è abituato. Per chi è abituato, figuriamoci, probabilmente sono le persone che in questo momento non cambieranno molto le loro abitudini. Chi ha il camper, ci aveva detto il primo ospite, che le vacanze si svolgeranno soprattutto in automobile, perché i mezzi di trasporto, treni, aerei, saranno molto condizionati. Chi invece l'automobile ha un furgoncino attrezzato per dormirci, probabilmente cambierà poco per lui. Si muoverà in perimetri più ristretti, ma continua a fare sempre le stesse cose. Ecco, Ruscello, lei come vede in realtà un protocollo di riconversione delle varie strutture? Io penso ai B&B. Il B&B è stato in questo momento la grande rivoluzione degli ultimi anni, sia dal punto di vista attivo che passivo. Chi aveva un appartamento che non usava, lo pensava a riconvertire, faceva un B&B. Era una piccola risorsa che oggi non avrà più per molto tempo. Chi in realtà era abituato ad andare nel B&B aveva una forma molto, molto vantaggiosa di poter viaggiare, ma molto condizionata. Anche loro non potranno più fare le cose alla casalinga, dovranno anche loro occuparsi comunque di una riconversione delle abitudini di gestione. Indubbiamente sì, adesso si parla anche di una riconversione di questo tipo di strutture in luoghi dove fare dello smart working, quindi ho sentito parlare anche di questo per quanto riguarda le strutture come i B&B. Questo è interessante, Airbnb ha licenziato non so quante persone, sì, figuriamoci, quindi già prevedono una crisi, però chi ha la struttura dice io vi do un ufficio ben attrezzato, però dovrà metterci una rete ad alta velocità, metterci strutture, attrezzature e essere pronto a sanificare. Bravissimo. E soprattutto poi non avrà più quei ricavi che poteva avere come un affitto di un B&B, perché poi un'attività di smart working su una piazza come Roma, sì e no, può garantire delle entrate soddisfacenti, ma sicuramente saranno diverse da quelle che potranno essere le entrate in normali attività. Non deve rifare i letti, però deve sanificare i microfoni, monitor, quindi, tastiere, che non è da poco, è una forza lavoro che c'è sempre. Quindi poi non rifare un letto si traduce in pochi euro la differenza, ma sanificare una tastiera e farlo bene senza creare danni ci vuole un minimo di specializzazione. Sì. Esatto. E quindi bene, la vedo difficile anche per i B&B. Forse quelli che potranno avere maggiore vantaggio da questa situazione sono appunto le case vacanze. Le case vacanze da dove poi è un'isola protetta, perché è un'unica utenza e quindi chi ha investito, chi ha un appartamento, l'ha utilizzato, l'ha adibito a case vacanze, sicuramente non dovrebbe risentire tanto. La ringrazio Alessandro Ruscello, la sigla ci porta via il tempo a nostra disposizione, abbiamo capito che comunque ci vorrà un grande lavoro di fantasia, di impegno e di elasticità nel riconvertirsi. Alla prossima.